strano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24. E tu non ci puoi far niente, niente. Buongiorno, buongiorno a tutti da Marina Macelloni del Sole 24 Ore. Sono qui anche questa mattina per leggere con voi i quotidiani in edicola. Oggi a dominare sulle prime pagine dei giornali è la politica italiana, con lo scontro tra Fini e Berlusconi dopo la richiesta del governo di mettere la fiducia sul decreto anticrisi. Tutti i grandi giornali hanno messo in campo i commentatori politici e quindi poi vedremo un po' di editoriali e commenti. Molto spazio ancora dedicato a Gaza. All'esordio al congresso americano di Hillary Clinton, il nuovo segretario di Stato, alla vicenda l'Italia ancora il giorno dopo e naturalmente all'esclusione dagli Oscar del film italiano Gomorra. Vediamo ora i titoli, cominciamo con il Corriere della Sera che apre su Gaza. A Gaza tra macerie e rabbia è l'apertura del Corriere. Viaggio nella striscia arrivando dall'Egitto, i racconti nell'ospedale, colpiti soprattutto i civili, le ambulanze, le vittime e una bambina che sogna l'università, è il titolo del reportage di Lorenzo Cremonesi che è entrato ieri a Gaza. All'articolo accompagnato a un'analisi da Ramallah, i veri palestinesi sono moderati, di Bernard Henri Lévy. A centropagina il titolo sulla politica, fiducia sul decreto anticrisi, ira di Fini, Berlusconi reagisce. E sempre a centropagina la nuova l'Italia e a Milano nasce il fronte Prolinate, no al taglio dei voli. Repubblica apre invece sullo scontro tra Fini e Berlusconi, fiducia, scontro, Fini, Premier, nuova accusa del Presidente della Camera dopo la richiesta del Governo sul decreto anticrisi, immigrati, torna la tassa, offesa alla dignità del Parlamento, la replica decido io. A centropagina, mafioso con 40 omicidi non farà più il carcere duro, sconto del Tribunale a Ganci, uno dei killer di Falcone, polemiche sull'archivio unico di polizia, di spalla è richiamato invece l'esordio di Hillary Clinton. Hillary Clinton, nessun accordo con Hamas, esordio al congresso del segretario di Stato. E in fondo il pezzo di Natalia Aspesi, Gomorra, schiaffo da Hollywood, il film di Garrone escluso dall'Oscar per la miglior pellicola straniera. La stampa, l'altolà di Fini a Berlusconi, dopo immigrati e dialogo con l'opposizione, nuovo scontro, il premier, blindare il decreto anticrisi è necessario, mettete la fiducia per risolvere i vostri problemi, così la Camera non discute. Sempre in alto nei richiami di prima pagina l'Alitalia, i primi voli della compagnia, sul fronte era l'Italia, l'Inate diventa l'ultima trincea, gli aeroporti campo di battaglia nello scontro nord-sud dentro il PDL, Castelli attacca Letta. A centropagina una foto dal film Gomorra, Hollywood preferisce gli eschimesi a Saviano. Il Sole 24 Ore invece apre con una notizia di politica economica, bene il rating Italia, manovra blindata, BTP e Bund tedeschi esclusi dai ribassi di Standard & Poor's, questa è la buona notizia arrivata ieri sui conti pubblici italiani, scontro Fini Premier sul ricorso alla fiducia, sì di Sacconi sull'età pensionabile delle donne. La foto notizia di prima pagina è dedicata invece al gas, è una foto di Vladimir Putin. Salta l'accordo tra Mosca e Kiev, in Europa non arriva il gas russo. A centropagina all'Italia, debutto tra i cortei, Spinetta che è il numero uno di Air France, obiettivo è l'utile, proteste a Malpensa e qualche ritardo, alt di Formigoni e Lega. E sempre a centropagina una notizia che interesserà molti risparmiatori, fondi di investimento, più informazioni al cliente e meno barriere nazionali. Strasburgo ha varato la direttiva UE, la riforma europea sui fondi di investimento. Il fogliettone di copertina del Sole 24 Ore è dedicato a Gaza, lo vedremo dopo. Gaza, le ragioni dei giornali e la ragion di Stato, un pezzo di Ugo Tramballi da Gerusalemme. Il Messaggero, decreto anticrisi, scontro sulla fiducia, Fini, Parlamento espropriato, Berlusconi, indispensabile metterla. Il governo blinda il provvedimento, il presidente della Camera critica, plauso di PD e UDC. A centropagina l'Italia, la protesta non ferma il decollo, al via tra agitazioni e voli cancellati, il garante, servono più precettazioni. Il Premier difende l'alleanza con i francesi. Fiumicino, il piano, 1,6 miliardi di investimenti e un terminal solo per la compagnia di bandiera. Richiamato con una foto del Papa anche il botta e risposta tra il Vaticano e i rabbini, accuse al Papa dal rabbino di Venezia ed è polemica. Cancellati 50 anni di dialogo. Il Vaticano, le difficoltà non ci fermino. Il giornale torna sulla questione di Pietro, alla quale sta dedicando molto spazio in questi giorni. L'apertura del quotidiano è 7 nuove domande per Di Pietro. Lo incalziamo da giorni sulla gestione dei fondi pubblici al suo partito, sui suoi conti correnti, sulle sue case. Lui risponde indirettamente ma non chiarisce e i dubbi aumentano. Ecco quali sono. La foto di prima pagina del giornale è dedicata ad Adriano Celentano. L'ultimo sermone del molleggiato da Milli a Gaza, che noia la retorica di Celentano. È un po', non dico nascosta, però insomma non troppo evidente la polemica tra Fini e Berlusconi. Il titolo a centropagina è Berlusconi dice no alla tassa sugli immigrati, governo al lavoro, Bossi è d'accordo, buona l'intesa con Air France, polemica col presidente della Camera sull'uso della fiducia. Gli altri giornali hanno dedicato uno spazio decisamente diverso. Libero, Alitalia ricomincia male, sciopero preventivo. Gli scali di Malpensa, Linate e Fiumicino bloccati per diverse ore dai lavoratori che protestano contro la nuova compagnia, tanto per mettere in chiaro chi comanda. Nel caso di Libero invece l'editoriale di Vittorio Feltri è dedicato allo scontro tra Fini e Berlusconi, il titolo è Bravo Fini, così Silvio capirà. Avvenire torna invece su Gaza, assedio a Gaza City, missione ONU al via, ormai si combatte casa per casa nel cuore della città, Israele, Hamas concentra bimbi nelle scuole minate. È richiamato in prima pagina di Avvenire l'avvenimento politico di ieri, fiducia sul decreto anticrisi, Fini colpito il Parlamento. C'è anche un'inchiesta di Avvenire dal titolo Famiglie in affanno, la strada del microcredito, in campo diocesi e Caritas. L'Unità invece si occupa di Alitalia, il titolo è Volare oh, che fa il verso alla canzone famosa di Domenico Modugno, Nuova Alitalia è caos, 6 ore da Linate a Roma, cancellazioni e ritardi in tutti gli aeroporti, cortei e proteste, scioperi spontanei e sempre più passeggeri preferiscono il treno. Il fascione rosso di prima pagina dell'Unità è dedicato alle parole di Silvio Berlusconi di ieri sull'insediamento di Obama, aperte le virgolette, no, non andrò all'insediamento di Obama, non sono andato a quello di Bush e poi io sono un protagonista, non una comparsa. Silvio Berlusconi, ANSA, 13 gennaio, ore 17:20. Richiamato in prima dell'Unità, governo a colpi di fiducia, Fini accusa in aula e l'intervista ad Andreotti, che poi se abbiamo tempo vedremo, i 90 anni del divo, delle mie colpe non mi hanno mai chiesto conto. Il Riformista torna sulla politica, il PDL sembra il PD, Fini bacchetta il governo, ormai c'è una lite al giorno. Il Manifesto invece insiste su Gaza, in trappola, c'è una bellissima foto a tutta pagina di bambini e donne, l'esercito israeliano avanza dentro Gaza City, al via i raid più pesanti, le vittime palestinesi sono 971, bombardati da cielo, terra e mare, decine di migliaia di civili vagano senza via di scampo. La popolazione senza acqua, cibo, medicine, elettricità, non c'è tregua. Hillary Clinton non si tratta con Hamas, Ban Ki-moon in Medio Oriente. Il Secolo XIX infine torna sulla questione degli autobus con la pubblicità degli atei, Genova battaglia sui bus degli atei. La Padania invece ancora su Alitalia, ecco come si salva Malpensa, la soluzione nell'emendamento della Lega per la liberalizzazione delle rotte e lo sblocco degli slot. A questo punto ci fermiamo un momento, diamo la linea al GR. È la stampa, Belletta, la stampa. Eccoci di nuovo a leggere i giornali di oggi. Dopo aver visto i titoli principali, entriamo un po' nelle pagine interne e leggiamo qualche approfondimento. Partiamo dalla politica italiana, dallo scontro tra Fini e Berlusconi. Prendiamo Repubblica che lo racconta così. Nuovo scontro tra Fini e Berlusconi. Il botta e risposta tra Presidente della Camera e Premier avviene sulla fiducia messa dal governo per il decreto anticrisi in Parlamento. Dure le parole dell'ex leader di AN, offesa alla dignità del Parlamento, cui il Cavaliere ha replicato: decido io. Un confronto duro che riapre il conflitto tra i due. Intanto torna la tassa sul permesso di soggiorno per gli immigrati. Maroni ha spiegato che l'imposta c'è e dopo un chiarimento con Berlusconi il governo ha annunciato che la tassa resta. Alla vicenda Fini-Berlusconi è dedicato un commento di Curzio Maltese che parte dalla prima pagina. Il titolo è Le guerre indiane del Cavaliere. Comincia molto male il 2009 del governo Berlusconi, secondo Curzio Maltese. Un giorno un veto di Bossi, un altro la lite con Fini, l'immagine regale del Premier che comanda tutto e tutti, unto da un consenso oceanico, mostra le prime crepe. Combina poco e quel poco grazie ai voti di fiducia, quasi temesse la propria maggioranza, in teoria solidissima e compatta, agli ordini del capo. Alla vicenda è dedicato anche il retroscena di Claudio Tito, pagina 3, l'ira del Premier per il nuovo blitz, così Gianfranco farà la fine di Casini, dietro gli scontri la guerra tra partito del Nord e sudisti. Il pezzo di Claudio Tito si apre con un virgolettato attribuito a Silvio Berlusconi. Gianfranco cerca visibilità, ma così il ruolo lo perde e non lo trova. Sta sbagliando tutto. Se cerca spazio nel futuro del PDL, così farà solo la fine di Casini. Lì ce lo abbiamo messo noi e non il PD. Da qualche settimana, scrive Claudio Tito, Silvio Berlusconi ha messo nel mirino il presidente della Camera e anche la strigliata fatta ieri al governo non l'ha digerita. Anzi, lo ha mandato su tutte le furie. Eppure quel che è accaduto ieri pomeriggio nell'aula di Montecitorio non è stato solo lo scontro sulle formalità istituzionali. Non si tratta esclusivamente di un battibecco tra il Cavaliere e il leader di AN, ma è la rappresentazione plastica delle tensioni che stanno agitando la maggioranza. Un po' lo stesso tono che si trova su altri quotidiani. Il Corriere della Sera dedica alla vicenda un commento di poche righe non firmato in prima pagina, il titolo è L'eccesso. Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha facile gioco nel dire che se, secondo il premier Berlusconi, è indispensabile il ricorso alla fiducia, stavolta l'indispensabilità è solo e soltanto un problema della coalizione di maggioranza. Stavolta non c'erano assilli di particolare urgenza. Stavolta non c'erano ostacoli ostruzionistici che potessero indurre il governo a forzare i tempi del Parlamento. Stavolta solo il timore di aprire una falla nella maggioranza ha consigliato l'uso smodato della fiducia. Un eccesso di voti di fiducia è già patologico, ma un eccesso dettato dalla scarsa compattezza di una maggioranza che pure dispone di numeri schiaccianti per governare è doppiamente grave. Da qui la qualità politica e non meramente regolamentare del richiamo di Fini. La maggioranza non può risolvere i suoi problemi umiliando il Parlamento. Questo davvero sarebbe un eccesso di troppo. Alla stessa vicenda è dedicato un retroscena di Francesco Verderami a pagina 8, il titolo è Gianfranco e il Premier, l'ultima lite è sul PDL. Qui l'analisi di Verderami va oltre la vicenda di oggi e si occupa di che cosa succede nel nuovo partito. Non si parlano, non si vedono, non si sentono e soprattutto non si sopportano. Ma le differenze di carattere non c'entrano. Lo scontro tra Berlusconi e Fini è politico, è la manifestazione di profonde divergenze sul modo in cui sta nascendo il PDL e siccome le tensioni si stanno riverberando sul governo c'è il rischio, ammette il forzista Valducci, che la nascita del nuovo partito sia posticipata. Ecco qual è, secondo Verderami, lo scontro vero. Eppure il Premier aveva già fissato la data delle assise, il 27 marzo, giorno della vittoria elettorale nel 94. Perciò la russa, plenipotenziario di AN, non crede a un rinvio, anche perché se ci fosse fosse un ritardo, non si tratterebbe di un ritardo, diverrebbe un problema serio. Tuttavia, che esista l'ipotesi di un rinvio lo si intuisce dal vertice che Berlusconi ha convocato oggi con i ministri azzurri e lo Stato Maggiore di Forza Italia. Vedremo quindi che cosa succede oggi. Allo stesso argomento dedicato anche l'editoriale della Stampa di Marcello Sorgi. Il titolo in questo caso è "Sullo sfondo la successione". Anche l'editoriale di Sorge va oltre la vicenda del giorno e si occupa di quello che succederà nei prossimi mesi dentro la maggioranza di governo. Va detto subito, la durezza con cui il presidente Fini ha reagito ieri all'ennesimo voto di fiducia sul decreto anticrisi è pienamente giustificata, dice Sorge sulla Stampa. Un esecutivo in carica da pochi mesi, che per la decima volta pone una richiesta del genere alla Camera, governa solo praticamente a colpi di decreti e fiducie. Nei corridoi di Montecitorio però subito lo scontro plateale tra Fini e il ministro Vito, i cronisti si esercitavano per stabilire quante volte di recente il presidente della Camera abbia preso posizione contro Palazzo Chigi. Chi dice 6, chi dice 3, Marcello Sorgi ricorda tutte le volte in cui Fini e Berlusconi si sono scontrati. Questo malessere così evidente, dice, a una sola la spiegazione, che potrebbe sembrare avventata ma non lo è. A 9 mesi dalle elezioni politiche che lo hanno visto vincitore, nel centrodestra si è aperta in anticipo la partita per la successione di Berlusconi. Niente di nuovo, ma quel movimento, quell'effervescenza che si erano già viste alla fine della legislatura 2001-2006, stavolta spuntano all'inizio, con il rischio di indebolire il governo. A questo punto passo al Sole 24 Ore, che alla vicenda dedica il punto, la nota politica di Stefano Folli, a pagina 15. Il titolo è "Dietro le accuse, un disagio, non ancora una dialettica a destra". Non è la prima volta che Gianfranco Fini si erge a difensore del Parlamento contro una certa tendenza alla prevaricazione da parte della maggioranza. Si può supporre che non sarà nemmeno l'ultima. Questo è il ruolo che il Presidente della Camera si è scelto in una legislatura in cui non ha responsabilità politiche dirette. Essere il garante della dialettica parlamentare contro, potremmo dire, una sorta di blanda dittatura della maggioranza. Questo scrive Stefano Folli nel suo editoriale. Prima di Fini, un compito analogo lo aveva assunto nella legislatura 2001-2006 Pier Ferdinando Casini, anche lui presidente di Montecitorio, e in effetti c'è una qualche analogia nel comportamento dei due uomini, entrambi ancora giovani, entrambi insofferenti verso l'eterna leadership berlusconiana. Ora il presidente della Camera, conclude Folli, protestando contro la fiducia voluta da Palazzo Chigi, mette a nudo in modo impietoso gli screzi che attraversano la maggioranza, anzi li esalta con il tono aspro delle sue accuse. Il suo è senz'altro un servizio reso al Parlamento, ma al tempo stesso è un segnale che qualcosa non va nel centrodestra, proprio nel cuore del futuro partito unico che i sondaggi danno sempre saldamente in testa nelle preferenze degli italiani. Con questo direi che abbiamo abbastanza esaurito l'argomento. A questo punto passerei invece alla vicenda internazionale che occupa purtroppo da molti giorni le prime pagine dei giornali. Gaza. Cominciamo dal Corriere della Sera, che ha mandato un suo inviato, Lorenzo Cremonesi, è riuscito a entrare a Gaza e a visitare gli ospedali. E il suo articolo comincia così: entriamo verso le 14 con il bus egiziano scalcagnato dal posto di frontiera Rafah. C'è un'atmosfera tesissima. Israele per tutta la mattina ha bombardato i tunnel lungo il confine. I caccia nel cielo, il fischio, lo scoppio profondo, terrificante. Continua Cremonesi, a pagina 3, il reportage è illustrato da molte fotografie. Alcune bombe sono cadute poche decine di metri da qui, infrangendo parte delle vetrate al terminal egiziano. Sul bus siamo in due. L'altro passeggero è un dottore palestinese che rientra a casa. Dall'altra parte, in Hamas Land, non ci sono sentinelle armate, solo un paio di uomini barbuti con vestiti bruni impolverati che parlano al walkie-talkie. Per lasciare il terminal ci si muove in ambulanza, tutti indistintamente. Le strade sono vuote, solo 3 vecchie Mercedes lungo i 4 chilometri che portano all'ospedale europeo nella zona palestinese di Rafah. Continua, il pezzo è molto lungo, molto partecipato e drammatico. Sempre sull'argomento Gaza, volevo segnalare anche il Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che ha un articolo di Ugo Tramballi in prima pagina che si occupa di come la stampa israeliana sta trattando la vicenda. Il titolo è Gaza, le ragioni dei giornali e la ragion di Stato. Il problema non è se pubblichiamo o no le foto delle distruzioni che provochiamo a Gaza, ma la reazione della gente. Da voi si indigna, da noi gioisce. Quello che ha reso Nahum Barnea la penna più famosa di Israele è il suo modo di affrontare le cose con realismo, come 14 anni fa, quando suo figlio fu ucciso in un attentato e lui, al funerale, perdonò l'assassino, considerandoli entrambi vittime della stessa tragedia. La sua riflessione sulle foto della disperazione di Gaza non è che la constatazione dei limiti della stampa israeliana, spesso costretta a rappresentare la civiltà di un buon giornalismo in mezzo agli istinti che una guerra solleva, perché di foto dalla parte di Gaza e di racconti degli effetti dei bombardamenti sui civili ce ne sono pochi in Israele. È scarsa la percezione dell'altro. Di là c'è solo Hamas e non anche una popolazione civile. Questo dice Tramballi, che prosegue poi a pagina 10 del Sole 24 Ore e chiude citando lo stesso giornalista israeliano: sappiamo che per ridurre al massimo le perdite il comportamento delle truppe con i civili di Gaza è brutale, ammette Nahum Barnea. In Israele il vero dibattito sulla guerra non è ancora incominciato, non ora, ma poi ci sarà, e se l'esercito ha commesso dei crimini la stampa non lo nasconderà. Un pezzo molto interessante. Invece da Repubblica vorrei leggere l'esordio di Hillary Clinton, che comunque sempre di politica internazionale si è occupata. Lei sarà segretario di Stato dell'amministrazione di Barack Obama. Ieri è stata ascoltata al Parlamento americano. Il titolo è del pezzo a pagina 10 di Mario Calabresi: Hillary, cercheremo la pace, ma con Hamas non si tratta. La Casa Bianca di Barack Obama farà ogni sforzo per arrivare alla pace in Medio Oriente, ma non dialogherà con Hamas finché il gruppo palestinese non rinuncerà alla violenza e non riconoscerà Israele. Questa, ha spiegato il segretario di Stato designato Hillary Clinton, sarà la linea dell'amministrazione americana che entrerà in carica la prossima settimana. L'ex First Lady, ascoltata ieri dalla Commissione Esteri del Senato, che domani dovrà confermare la sua nomina, ha illustrato la nuova agenda diplomatica, mettendo al primo posto l'Afghanistan, promettendo un approccio nuovo e diverso con l'Iran, impegnandosi a riportare l'attenzione sul Darfur e sul cambiamento climatico e annunciando che verranno rimosse le restrizioni sui viaggi a Cuba per chi voglia visitare i parenti rimasti sull'isola. Obama e io comprendiamo e siamo solidali con il desiderio di Israele di difendersi e di liberarsi dal lancio dei razzi da parte di Hamas, ha sottolineato, ma tuttavia siamo anche consci dei tragici costi umanitari del conflitto e addolorati dalle sofferenze dei palestinesi e dei civili israeliani. Nell'audizione, ricorda Mario Calabresi, Hillary Clinton ha però escluso categoricamente ogni dialogo con Hamas. Non possiamo negoziare con loro se non rinunciano alla violenza, non riconoscono Israele e non accettano di rispettare gli accordi del passato. Si è occupata poi anche di due vicende che agli americani interessano molto e che segneranno una discontinuità rispetto all'amministrazione precedente, cioè Cuba. I cubani americani sono ambasciatori di libertà, per questo devono cadere le restrizioni sui viaggi a Cuba, ha detto Hillary Clinton, e l'Iran. L'Iran è particolarmente importante, nessuna opzione è esclusa per impedire che l'Iran diventi una potenza atomica, ma noi tenteremo un approccio diverso rispetto evidentemente a quello di Bush. A questo punto io mi fermo per qualche minuto, do la linea alle notizie sul traffico, ci risentiamo tra pochissimo. È la stampa dell'Etta, la stampa. Di nuovo buongiorno a tutti, eccoci per l'ultima parte della rassegna stampa. Abbiamo visto prima la politica italiana e la politica internazionale con Gaza e l'insediamento di Hillary Clinton. Torniamo invece adesso alle vicende italiane con Alitalia. Ieri è partita la nuova compagnia, tutti i giornali sottolineano la partenza, diciamo così, difficile, con ritardi e proteste in tutti gli aeroporti italiani. Repubblica dedica a questa vicenda un commento di Tito Boeri, che torna sulla vicenda del Nord. Il titolo è «Il Nord tradito dai nordisti». Il grande vincitore delle elezioni dell'aprile scorso è stata la Lega Nord, dice Boeri. Oggi il suo elettorato si sente tradito. Basta sfogliare virtualmente i giornali online del Varesotto per rendersene conto. Un anno fa eravamo venuti da tutta la Padania a Malpensa, faceva un freddo cane, per protestare contro il progetto Prodi che voleva vendere all'Italia Air France. Boeri cita appunto queste proteste leghiste. Poi è venuto Berlusconi, è venuta la cordata, è venuta la CAI, è venuta l'alleanza con Air France e sono rimasti pochissimi voli su Malpensa. Quanto freddo abbiamo patito in cambio di una beffa. I toni utilizzati dal sindaco di Milano, ricorda Boeri, nel commentare in televisione l'epilogo della vicenda CAI non sono stati molto più teneri nei confronti dell'attuale governo e il fatto è che le beffe per il Nord vanno ben oltre Malpensa. Sono i 140 milioni per salvare Catania e altre amministrazioni fallimentari al sud, l'esclusione di Roma dal patto di stabilità interno, come dire che non avrà vincolo di bilancio, il commissariamento prima e poi il blocco dei fondi per l'Expo a Milano, per non parlare poi del continuo rinvio e annacquamento del federalismo. E questi sono i punti critici, secondo Boeri, del Nord nei confronti del governo. Anche il Corriere della Sera se ne occupa a pagina 11. E anche in questo caso c'è un articolo ampio dedicato alle proteste della Lega, che riprende il pezzo della Padania che avevamo visto ieri. Malpensa, Lega pronta allo strappo sul voto locale, duello su Letta Mazzarino. La Padania sugli scali lombardi, qualcuno ha barato. Malpensa, qualcuno ha barato. Il titolo di apertura della Padania di ieri restituisce bene il sentimento che si respira nel carroccio. E rifà proprio il racconto degli umori leghisti. Invece Franco Locatelli sull'Unità si occupa della questione dal lato invece più industriale. Il titolo del suo commento è «Il miracolo della normalità», parte dalla prima pagina del Sole. «Tra scioperi, ritardi e cancellazioni di voli non si può dire che il debutto della nuova Alitalia sia stato trionfale, ma per i miracoli c'è sempre tempo. Quello che dovrà fare Roberto Colaninno è uno solo: trasformare l'Alitalia da carrozzone dominato da politici e sindacati in un'impresa semplicemente normale». L'articolo segue poi a pagina 5. La convulsa giornata di ieri ha bruscamente ricordato a tutti e in primo luogo agli sfortunati viaggiatori di Alitalia che la discontinuità di cui la nuova compagnia ha bisogno è più complicata del changeover degli aerei che nella notte tra lunedì e martedì ha segnato il passaggio dalla vecchia alla nuova società. In tutto questo c'è qualcosa di già visto, ma c'è anche il senso della scommessa che attende la nuova compagnia e che si può ben riassumere nel ritorno, o per meglio dire nella conquista della normalità aziendale. Trasformare l'Alitalia da ente di assistenza in impresa attenta ai bilanci e alla qualità del servizio sembra un'ovvietà, ma è una rivoluzione. Ecco, questo per oggi è tutto su Alitalia. Invece dall'Unità volevo leggervi qualcosa dell'intervista ad Andreotti, è l'ennesima, nel senso che tutti i giornali hanno intervistato il politico italiano che compie 90 anni, sull'Unità, all'Unità gli dedica due pagine. «Delle colpe che ho, nessuno mi ha mai chiesto conto», questo è il titolo che l'Unità sceglie per l'intervista. «Il senatore a vita è il suo epitaffio, se lo sapessi non lo direi. Oggi compie 90 anni il più controverso protagonista della vita politica italiana. Il suo erede non ce l'ho né lo pretendo». Giulio Andreotti rilascia la 14ª intervista per i suoi 90 anni, seduto in un trono di velluto azzurro con i bordi d'oro. La sua stanza a Palazzo Giustiniani è piena di doni, quasi tutti i ritratti di papi, uno di Padre Pio. Non è affatto stanco, comincia così l'intervista, che come al solito quando si tratta di Andreotti è anche abbastanza divertente. A questo punto passiamo all'altra notizia che c'è su tutti i giornali con grande evidenza, che è quella degli Oscar del cinema. Gomorra escluso dalla cinquina, dall'elenco dei migliori film stranieri che vincerà l'Oscar. Lo prendo da Repubblica, il pezzo di Natalia Aspesi, il titolo è Gomorra, schiaffo da Hollywood. Non ha vinto il Golden Globe, è stato escluso dalla rosa di 9 finalisti all'Oscar per il miglior film straniero. Non è per patriottismo che spiace questa strana sconfitta di Gomorra, ma perché si tratta di un bellissimo film, soprattutto un bellissimo, importante, sincero, tragico film italiano, uno dei pochi che hanno ridato splendore e onore al nostro cinema. Lo aveva capito la giuria internazionale di Cannes, che gli aveva assegnato il gran premio della giuria. Il pezzo poi prosegue all'interno. Lo aveva capito quella degli Oscar europei con 5 premi. Lo aveva capito quella degli Oscar inglesi, che lo aveva scelto come miglior film straniero. Tra i 9 che invece concorrono all'Oscar lasciando fuori Gomorra, ne ho visti qualcuno e posso dire che sono belli pure loro. Può darsi non meno, ma certamente anche non di più, scrive Natalia Aspesi. Ci sono spiegazioni? Tante se ne troveranno, cominciando da quella che vorrebbe gli americani, incapaci di capire un film così esemplare e reale sulla piaga della camorra. Non c'è niente da capire, a parte il fatto che il libro di Saviano, cui il film si è ispirato, è molto conosciuto negli Stati Uniti. Al massimo si può pensare che abbia destato incredulità, che sia apparso come una storia virtuale, immaginaria, non collegabile con un paese moderno, con un premier così contento di sé e del suo perfetto paese. A questo è dedicato anche un pezzo che parte dalla prima pagina della Stampa, il cui tono però è decisamente differente. È di Massimo Gramellini, il titolo è Il peccato di Gomorra. Prima di dichiarare guerra alla Becher Academy di Los Angeles, che ha osato escludere la nostra cara Gomorra dalla cinquina, anzi dalla pre-cinquina dell'Oscar, in cui hanno trovato posto anche film turchi e messicani, forse dovremmo provare a metterci nei panni della giuria. Cosa cerca un appassionato di cinema in un film? Sempre le stesse tre cose, secondo la celebre definizione di Hitchcock. The story and the story. La storia e la storia. Ovvero la narrazione per immagini di una materia nella quale tutti gli uomini del pianeta si possano rispecchiare, non solo una casta di intellettuali cinofili o gli abitanti di un singolo e non vastissimo stato dell'Europa del Sud. Tutto questo, secondo Gramellini, in Gomorra non c'è. C'è un coraggioso spaccato di cronaca che non si fa romanzo. C'è un bel documentario che non diventa mai cinema, nel senso hitchcockiano del termine, che poi è l'unico possibile per la stragrande maggioranza degli spettatori. E con questo oggi si chiude la nostra rassegna stampa di oggi. A risentirci a domani da Marina Macelloni del Sole 24 Ore.